attenzione al blocchetto di partenza di Federica Pellegrini, che da questo momento prova a difendere il titolo mondiale dei 200 stile libero, ma c'è da fare i conti con una partenza sprint da parte di Melissa Franklin nella corsia 5, quella attigua a quella dove gareggia la fede nazionale. My mama told me when I was young, we're almost superstars. Sta cominciando a salire Federica, ha un buon passo, gli ultimi 15 metri ieri sono stati da manuale. 1:26.07, molto interessante il passaggio di Federica che adesso si lascia andare completamente. 1:25.05 il passaggio di Melissa Franklin, mentre Federica Pellegrini dietro ha cominciato a divorare tutte le avversarie. Ma Federica Pellegrini è medaglia d'argento, un'altra emozione comunque sia, un'altra gara strepitosa da parte dell'azzurra che non finisce mai di stupirci. Ciao a tutti, Franco Piantanini, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia, 800240024 e tutti ci inchiniamo alla regina, Federica Pellegrini. Poi, mi devono dire la verità su questo punto, perché, allora, io non sarò malizioso insieme a voi, non so se volete, scrivete, mandate messaggi 349-238-6666 o telefonate 800-24-0024 che mi fa più piacere ancora. Federica Pellegrini ieri entrando in piscina con quelle cuffie enormi bianche sulle orecchie ascoltava questa canzone di Lady Gaga, non so se vi piace, a me no. Non particolarmente, insomma, ma al di là di queste frattaglie, allora mi devono ancora convincere, ripeto, sarò malizioso, del fatto che Federica Pellegrini non aveva segretamente almeno questa gara nella testa, questa gara nel programma, perché io non credo, non siamo ai giochi della gioventù, siamo a un mondiale di nuoto particolarmente delicato dopo l'esperienza che abbiamo vissuto profondamente negativa di Londra, ma anche perché eravamo abituati benissimo da Sydney 2000 in poi ad avere i nostri nuotatori come salvagente, come forziere delle medaglie. Ebbene, arriviamo a questo mondiale di Barcellona con diversi dubbi e la spedizione non comincia benissimo, con Scozzoli, come lo sapete, con i larghi bianchi e con gli altri nuotatori, le altre superstar delle vasche, e improvvisamente si presenta sui blocchi dei 200 stile libero Federica, che vince questa medaglia d'argento meravigliosa contro quel mostro che è Missy Franklin, insieme alle altre due sedicenni che abbiamo imparato a conoscere in questi mondiali. Ebbene, ci regala una medaglia d'argento che vale molto di più considerato il complesso di questa spedizione del nuoto. Altra regina del nuoto che a Roma avevamo, che adesso commenta per Eurosport, Alessia Filippi. Ciao Alessia, ci siamo sentiti l'altro giorno. Buongiorno. Allora, io sono malizioso, Alessia, ma nessuno riesce a togliermi dalla testa questa idea che Federica avesse comunque segretamente in programma questa gara, perché non, ho detto prima, non siamo ai giochi della gioventù ma a un mondiale, magari c'è stata anche qualche pressione da parte della federazione, visti gli esiti non propriamente positivi delle prime gare. Insomma, un argento non si inventa, questa è la mia idea, non so la tua. Ma insomma, ci sono persone che dicono che lei già avesse in mente di fare questa gara già da un pochino di tempo, chi invece dice no, è stata una sorpresa, Sinceramente no, non te lo so dire. Sappiamo che ci ha regalato questo argento inaspettato e siamo molto molto contenti che lei abbia effettuato questa gara, anche perché ha dimostrato a se stessa, a tutto il mondo, che è tra le prime, c'è ancora Federica, insomma, tra le prime al mondo, come hai detto tu, dopo il mostro di Missy Franklin, che ha 18 anni, quindi un pelino più giovane rispetto a Federica. E poi è stato il suo primato col costume in tessuto, insomma, non col costume gommato che utilizzavamo nel 2008-2009, quindi siamo molto contenti che abbia fatto questa gara. Senti Alessia, ma en passant, questi mostri della Laguna di 16, 17, 18 anni, le due americane, la lituana, Militute, come me li spieghi? Cioè, siamo abituati alle tenniste a 16 anni, no? Ma alle nuotatrici, Federica era molto giovane, Atene 2004, me la ricordo bene, ero lì, tu eri molto giovane, però 16 anni dominare in questa maniera mi sembra così. Ma il nuoto sta cambiando radicalmente, adesso come hai detto tu vincono le quindicenni, sedicenni, puntano sul fatto, secondo me, della freschezza mentale e quella fisica, anche dell'inesperienza, tra virgolette, perché il nuoto è uno sport che ti annienta mentalmente, comunque durante l'allenamento non si può parlare, non si può scherzare con le amiche, insomma, di allenamento. Quindi puntano sulla freschezza, ecco, che hai a 16 anni, magari arrivi già a 21-22 che hai un bagaglio di 10 anni sopra e ti può stancare, come poi è successo a me, tra virgolette, ho smesso a 25 anni. Dici preferisco vivere? Ma no, comunque si può vivere lo stesso, è una scelta, non è obbligato a fare quella vita. Però insomma è una vita di insomma un po' abbastanza importante, forse, ecco, ti ripeto, puntano sulla freschezza mentale e quella fisica che le quindicenni hanno e magari una di 25 a meno. Sì, intanto secondo la versione ufficiale Lucas ha tolto i 200 stile dalla testa di Fede per un anno, la sera prima l'ha buttata in vasca dicendole vai e divertiti come se stessi andando a sposarti. Questa mi mancava, questa ti mancava, te la regalo io. Sì, non l'avevo sentita, sinceramente sono dell'idea che hanno fatto bene a fare questa strategia, insomma, in questi giorni, anche perché non si aspettava niente lei, non si aspettava nulla nessuno e quello è lo spirito giusto di divertimento e poi insomma il giorno del matrimonio è un giorno divertente, quindi ha fatto bene a dirle così. Senti Alessia, io ti sentivo ieri sera, ti sento tutti i giorni commentare su Eurosport, però un filo, un velo di, non dico di nostalgia, ma di così, di voglia l'ho sentita nella tua voce, quando ricordavi Roma, quando ricordavi queste cose. Poi lo so che tu dici, ma a settembre mi svegliavo la mattina e non ero più felice quando andavo in piscina. Ho provato anch'io quella sensazione, sebbene a livelli ben più bassi in altri sport, però quella passione è un fuoco che non si spegne mai. No, è stata parte della mia vita, io ho iniziato a 3 anni, insomma, ad allenarmi seriamente, ho iniziato a 10-11 anni, quindi è stata gran parte della mia vita e non potrò mai dimenticare le emozioni che ho provato vincendo una medaglia d'argento alle Olimpiadi e un mondiale in casa. Quello mi manca vincere, ma non mi manca il contorno, non mi manca l'allenamento, non mi mancano queste cose qui, insomma, non riuscirei a tornare ad allenarmi, però insomma le vittorie, quelle mancano, cioè, è normale che sia così, insomma, sarà per tutta la vita. E anche 15.000 persone a Roma che ti spingono, che ti soffiano addosso. Non possono non mancare quelle cose. No, ti capisco perfettamente, ma tu nuoti ancora? Oppure qualche quando volta vedi... entro in acqua, sì, ma giusto fai il bagno. Per fare il bagnetto, come diceva il mio allenatore, come bustina da tè, che va dentro l'acqua, su e giù, non faccio nient'altro, insomma 3 chilometri massimo, giusto per mantenermi in forma, non faccio gli allenamenti che facevo prima, non tre mi chiamano lontanamente. 3 chilometri se li faccio io devono chiamare l'ambulanza. Vabbè, tu devi calcolare che io ne facevo 16 al giorno. Quindi 3 chilometri per me non sono nulla adesso. È come andare a camminare nei boschi. Esatto. Ascolta Alessia, ma cosa allora, notizia di questa mattina, anche la 200 stile libero con Federica Pellegrini in finale. Sì, cosa dobbiamo aspettare? Ieri Greg Paltrinieri non benissimo, ma vogliamo essere cattivi fino in fondo, perché comunque è un ragazzo che sta sbocciando ora, quindi non è nemmeno giusto, non è nemmeno giusto buttargli troppa pressione addosso come ieri qualche ascoltatore faceva, perché dicevano Paltrinieri non ne parlate mai. Lasciamolo lì e poi vediamo cosa fa. La maturità a scuola, quindi comunque è stato un anno impegnativo, cioè dobbiamo anche ricordare che siamo esseri umani, non siamo soltanto atleti, ci sono anche altre cose, il diploma è una cosa fondamentale, secondo me è meglio diplomarsi e andare un pochino peggio nel nuoto che non diplomarsi e magari fare un secondo meno nel nuoto. La scuola è importante. Grande Alessia. La scuola è importantissima, quindi bisogna anche vedere anche quello, no? Non bisogna puntare soltanto su una cosa nella vita. Poi è un ragazzo giovane, come hai detto tu, vediamo poi 1500, lui ha preparato un'altra gara, non quella che ha fatto ieri, vediamo dai, insomma, poi magari si caricano le batterie a distanza di due giorni, vediamo, ripeto, da un ragazzo giovane, puntiamo su di lui non soltanto quest'anno, ma diciamo nell'ottica Olimpiade 2016. Sì, chiaramente. Allora, Alessia, prima di salutarti ti faccio sentire la voce di Federica Pellegrini ieri dopo questa vittoria, poi la commentiamo insieme, via. Sì, sono strafelice. Tra l'altro è il mio migliore col tessuto, sono contenta. Cioè, mi passano per la testa tantissime cose, non mi sarei mai aspettata di riuscire a comunque competere con le migliori in una gara che quest'anno non ho preparato. Quindi sono veramente strafelice. Sono partita 10 anni fa da qua e ritorniamo 10 anni dopo, non lo so, in una maniera strepitosa. Questa era Federica Pellegrini. Allora Alessia Filippi, detta la pupona, posso? Sì, certo. Ascolta, si è molto parlato della tua rivalità con Federica. Adesso facciamo un altro mestiere, ne parliamo bene. Buttiamo un sacco di incenso, ma qualcosa ti brucia ancora? C'è ancora questa rivalità? Guarda, ti dico, è stato più un gioco. Non ci sente nessuno, è solo un milione di persone. Vai serena. Allora, è stato più un gioco mediatico, sinceramente. Comunque l'Italia ha bisogno sempre di rivalità. Hanno trovato magari ecco le due più forti in Italia, le hanno messe contro, tra virgolette, ma la rivalità agonistica ci deve stare, giustamente, se no non siamo atlete. Però al di fuori, ti dico la verità, c'è stato sempre massimo rispetto, c'è sempre stato, ci sarà per sempre. Comunque abbiamo iniziato insieme, lei nel 2003 a Barcellona, io nel 2004 con Madrid, gli europei, poi le Olimpiadi, quindi eravamo due ragazzine, lei 16, io 17 anni, anzi ci siamo fatte forza insieme, no? Eravamo le due matricole doc in quegli anni. Allora torniamo dopo aver salutato e ringraziato Alessia Filippi, pur con qualche domanda scomoda, però ci sta, no? Di questa rivalità con Federica Pellegrini si è molto parlato e favoleggiato forse, e adesso insomma Alessia commenta le gare di questo mondiale. Ovviamente tutti facciamo il tifo per Federica, anche voi che magari un anno fa eravate lì a dire però questa ha in testa solo Magnini, ha in testa solo le love story, ha in testa solo altre cose diverse dal nuoto. Ebbene, ieri abbiamo avuto una risposta. Io sono il primo a dire, e sono stato ho sempre detto che insomma mi sembrano eccessive queste divagazioni per uno sportivo professionista, mi sembra eccessiva questa sovraesposizione mediatica per uno che è ancora profondamente impegnato nelle gare, profondamente immerso in quella piscina. Però evidentemente Federica è molto brava anche a gestire queste cose, è molto brava anche a gestire questa connection con la vita privata, e finché regge è così. 800240024, adesso ci fermiamo con il traffico, oggi, già ve lo dico, puntata tutta al femminile, perché poi voglio parlare anche più tardi, parlerò anche insieme a voi, io spero, di una cosa molto scabrosa che abbiamo visto ieri pomeriggio dalle 18.15 in poi, nel calcio, secondo me era una cosa da bollino rosso, mandata in prima serata è un po' tanto. Tutti convocati. Tocca a voi, 800 24 0024, soprattutto a voi, vi convoco e vi provoco al contempo, secondo i quali Federica Pellegrini era già, un anno fa era già persa nelle nebbie delle sue love story, persa in quelle Olimpiadi di Londra che ci avevano messo in croce dal punto di vista del nuoto, come non eravamo abituati ormai da lustri. Ebbene, tocca a voi, che secondo i quali Federica Pellegrini era finita, secondo i quali il nostro nuoto era finito. Poi avanzo i miei dubbi provocatori o insomma un po' perversi, secondo cui un mondiale sui 200 stile libero non si improvvisa, nemmeno se ti chiami Federica Pellegrini, e quindi queste, insomma, questi retroscena, queste parole di Luca secondo cui doveva andare a divertirsi come si fa appunto ai giochi della gioventù, beh, io non ci credo fino in fondo, ma lasciatemi le mie perplessità, per favore. Lasciatemi le mie perplessità, perché secondo me questa gara magari non era la principale della programmazione verso le Olimpiadi, ma non si improvvisa niente nello sport professionistico ai massimi livelli di oggi. Dunque nessuno mi toglie dalla testa che magari con qualche pressione della FINA, magari no, magari con qualche pressione degli sponsor, magari no, però insomma non sia andata proprio così, cioè vai e divertiti. Io avanzo qualche dubbio, me lo tengo questo dubbio, non so se lo condivido con voi, 800 24 0024. Mi scrivono giustamente, mi ricordano giustamente dalla redazione, adesso vediamo su 200 dorso sui quali ha lavorato invece seriamente, duramente, ed era nel programma ufficiale con Lucas, come andrà Federica Pellegrini. Intanto 200 stile libero argento, nel modo che abbiamo visto ieri, con un metro che l'ha separata da quel missile che si chiama Missy Franklin anni 18 e che era nuova grande cosa del nuoto mondiale, insieme alla sua compagna americana sedicenne, insieme alla Mary Tute che ha 16 anni pure e che sbriciola record primati e mangia medaglie a tutto spiano. Ebbene, vediamo che cosa combina ora Federica su quella distanza e in quello stile che non è esattamente il suo. 800 24 0024, vi ricordo il numero. Altro argomento che mi diverte un sacco, poi vi parlo anche del decalogo, qui stiamo parlando di calcio, che il Liverpool ha diramato ai propri tifosi. Allora, se volete entrare ad Anfield Road dovete rispettare le tavole della legge, i 10 comandamenti, cioè gli insulti che non dovete mai e poi mai e poi mai rivolgere ad alcuno, se no vi cacciamo a casa con gli steward che vi prendono per le orecchie. Ce n'è uno che mi interessa un sacco ed è questo. Comincio a buttarvelo lì. Hey man, you're playing like a girl. Stai giocando come una femminuccia. Se dite una frase di questo tipo all'interno di Anfield Road, venite presi per le orecchie da uno steward e portati ed accompagnati fuori. 800 24 0024. Francesco Modena, buongiorno. Buongiorno a te Carlo. Ciao. Innanzitutto tantissimi complimenti per la trasmissione. No, io ti chiamavo per condividere questa riflessione a cui tu in parte hai già accennato. Cioè, io francamente non credo che soprattutto da parte della federazione sulla Pellegrini e quindi sul fatto dei 200 non ci siano state pressioni, perché una federazione, ma certo, deve, ma comunque, ma produrre risultati anche per una questione economica, per una questione di finanziamenti. Ma allora tu sei il presidente della FINA, Federazione Italiana Nuoto Agonistico. Sì. Questi arrivi da un'Olimpiade disgraziata e questo lo sappiamo tutti. Le prime tue cartucce da medaglia te le hai sparate a salve, sempre per voler essere brutali. Devi salvare la spedizione, devi ridare nuova linfa così anche al popolo, no? Brioche al popolo. Allora, esatto, tu non fai un minimo di, così, di pressione, quantomeno sulla tua nuotatrice di punta, ma io la faccio. Io, se sono presidente federale, chiamo Lucas, chiamo Federica e dico: ma perché dai quei 200, ma andiamo a farli, perché no? Facciamo cassetta, facciamo audience, facciamo titoli sui giornali, eccetera eccetera eccetera. Poi io accetto insomma, la versione ufficiale, che è anche molto molto bella, no? Molto romanzata. Vai Federica, come se tu andassi all'altare, vai su quel blocco di partenza dei 200, benissimo. Non lo sapremo mai, perché nessuno mai ci verrà a confermare questa versione, questa ipotesi. Però onestamente, io fossi presidente della Federazione Italiana Nuoto, lo farei, una telefonata la farei. Sì, anche perché effettivamente ne va poi anche di me sostanzialmente. Poi magari, come gioco delle parti, lascio alla Pellegrini il certo, mediatico del questo è chiaro. Lo faccio per divertimento, insomma, alla fine è un po' un dare un avere, anche perché se poi vediamo quanta anche pressione sempre mediatica è sempre di appassionati è stata messa su Paltrinieri, che tu citavi, insomma, si capisce proprio come stesse buttando male, no? Quindi, insomma, ma certo, ma stava buttando male, altro che. Ma dopo le Olimpiadi non potevamo permetterci un altro flop da zero medaglie, no? E su Paltrinieri, io su questi ragazzi molto giovani come Greg, come Larry Bianchi, come lo stesso Scozzoli, eccetera, insomma, io non butterei tutta questa pressione. Cioè, spetta alle nostre stelle, in un momento difficile, come sempre nello sport, no? Quando arriva un momento difficile anche nel calcio, ok, dalla palla Messi, ok, dalla palla Tevez, ok, dalla palla chi vuoi tu, dalla palla Balotelli, nel basket dai la palla a Michael Jordan, dai la palla a LeBron James, dai la palla a questi, posso citarti tutti gli sport e farti un lungo elenco, però quando arrivano i momenti difficili tu ti affidi alle superstar che hai, no? Ma questo è questa è una regola generale dello sport, dunque non mi sorprenderebbe, non sarebbe neanche un delitto sapere o scoprire che, insomma, questa partecipazione di Federica ai 200 è stata caldeggiata o è stata sponsorizzata o è stata sollecitata dai vertici del nuoto italiano, che poi mi chiameranno e diranno: ma cosa stai dicendo? Ma non è vero, che fandonie stai raccontando? Io espongo il mio pensiero, perché sono qui per questo e me lo tengo. Grazie Francesco. Mauro Padova, buongiorno. Sì, Carlo, buongiorno. Pronto? Dimmi, sono qui, tutto orecchi. Io volevo lanciare orecchio verde di Radio 24. Volevo lanciare una provocazione riguardo quello che hai detto, vale a dire che c'erano tutti gli italiani davanti alla TV che ti favano Pellegrini. Io forse ero tra quelli che gufava per la Pellegrini, perché ho ancora negli occhi e nelle orecchie l'atteggiamento di dopo Londra, molto arrogante, molto infastidito, dove la colpa era di tutti tranne sua per la figuraccia che aveva fatto. Quindi secondo me molti italiani hanno ancora nelle orecchie quelle parole e sono anche un po' stufi di queste prime donne pizziate, un po' arroganti. Ma guarda Mauro, io non sono stufo, a me piacciono molti personaggi nello sport e Federica è certamente un personaggio, anche se poi c'è chi mi scrive: abbiamo capito che ti sta antipatica la Pellegrini, cambia mestiere, idiota, fammi vedere i messaggi. Dunque, abbiamo capito che ti sta antipatica la Pellegrini, smettila. Fa proprio ridere sulla Pellegrini, cambia mestiere, mi scrive un altro ascoltatore. Ma dove? Ma secondo voi mi sta antipatica Federica Pellegrini? Mai nella vita. Io dico, brava nel gestire tutte le pressioni che si è volontariamente tirata addosso con le sue storie pubbliche, ma a me di queste storie pubbliche importa niente. Cioè, a me importa che, come appassionato di sport e come italiano, che vada forte in piscina, che vada forte in acqua, quindi metto la bandiera fuori dalla finestra quando c'è la finale del 200 stile libero e non si discute, non gufo per niente. Mi piacciono i personaggi, mi piacciono i grandi sportivi, mi piacciono quelli che hanno il coraggio di metterci la faccia, e Federica è una di questi. Dunque non scrivete sciocchezze, semmai ditele, che poi vi rispondo per telefono 800 24 00 24. Michele Udine, buongiorno. Ah, salve, buongiorno. Io sono un amante dello sport, non particolarmente del calcio. Mi sono affacciato adesso così un attimino per acquistare un biglietto per mio nipote, fargli un regalo, che è molto, sì, appassionato della Juventus, no? Sì. E sono andato sul sito per capire un po', siccome mio nipote poi ha un problema, diciamo, ha un handicap, volevo capire bene se c'erano dei posti diciamo, dedicati, e qui tutto su internet, e volevo telefonare, no? Sai, il contatto umano, la voce. Certo. Ho trovato un numero, un 899 ho chiamato, ho dovuto chiamare un 899 a 1,50 € al minuto. Una società come la Juventus, dove pagano fior di quattrini, magari anche giusti, gli allenatori piuttosto che i giocatori. No, ma poi la Juventus è una società molto ben organizzata da questo punto di vista. Senta, facciamo così, Michele da Udine. Allora, io prendo un impegno pubblico. Lei lascia in ora il nostro centralino, poi proviamo a contattare la Juventus e proviamo a farle avere una risposta. Intanto questa è una versione giustamente resa pubblica. Poi vediamo che cosa hanno da dire, perché in tutti gli stadi ci sono dei posti riservati, non conosco quali siano esattamente le procedure. Però sarebbe interessante, e io so che insomma, anche dalla Juventus si stanno ascoltando, sarebbe interessante avere una versione ufficiale su questo punto. Io mi limito ad accogliere il suo appello e poi vediamo di fare chiarezza anche pubblica, come sarebbe il caso, anche pubblica su questo argomento, sul quale io non so darle un'altra risposta. Ecco, lei ha fatto bene a chiamare, ha fatto bene a lanciare on air questo messaggio. Tutti convocati. 800 24 00 24. Intanto scopriamo che a Constanza l'altra sera a Reggio Emilia hanno detto dai salame, nel senso di, sapete, no, ma è inutile che stia a fare la parafrasi o la traduzione, datti una mossa, mica insulti razzisti, oppure gli hanno detto insomma cose di questo, dai salame, datti una mossa. Io non lo sento, l'ultima volta forse l'ho sentito da mia nonna 50 anni fa, ma comunque al di là di questi epiteti è stata archiviata il procedimento, non c'è stato alcun, diciamo così, insulto organizzato, soltanto qualcuno che gli ha detto dai salame, datti una mossa. Se è così, allora Constant va licenziato. Se non è così, anche se sono tre idioti, tre imbecilli che gli dicono altre cose, allora qualche provvedimento va preso, anche se non è organizzato, nei confronti di quei tre imbecilli, perché gli steward non devono servire soltanto a portare fuori per le orecchie Danfield Road chi dice, chi pronuncia la frase "Hey man, you are playing like a girl", stai giocando come una femminuccia, vai. Danfield Road lo portano via. Se a Reggio Emilia o in qualunque altro stadio italiano c'è qualche coglione che dice una cosa di questo tipo, che lancia un insulto razziale, ebbene va portato via per le orecchie. Questa è la mia idea, perché 1, 10, 100.000 non fa poi tutta questa differenza. Abbiamo un ascoltatore in linea di cui mi sono perso il nome per problemi tecnologici. Chi c'è? Mauro Latina, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare solo un appunto. Noi abbiamo 17 anni, 16 anni che dobbiamo lasciare maturare, non mettergli pressione, tutto quanto. Sì. Ma gli altri hanno 15 anni, 16 anni che portano via medaglie d'oro. Sì, ma nel nuoto, sta parlando del nuoto. Ma sì, ma sì. Comunque Mauro, si ricorda quanti anni aveva Federica Pellegrini in medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene 2004? Okay. Quanti? No, di preciso non lo so, però 16, lo dico io, ero lì, guardavo, facevo il tifo. 16 anni, 16, ma non è questione di età, poi io credo che insomma negli Stati Uniti su Missy Franklin non ci siano tutte queste pressioni mediatiche, le vediamo nella camera di chiamata, ridere, scherzare, giocare, eccetera. Credo sia un modo un po' diverso di intendere lo sport, quindi io credo che in Italia non sia il problema, dica. C'è qualcosa che non va in Italia allora? Ma non lo so, ma non necessariamente, io dico soltanto che non possiamo chiedere a Paltrinieri o a Scozzoli di salvare il nostro nuoto. È giusto, no, che in momenti di difficoltà chiediamo magari qualche sforzo supplementare a Federica Pellegrini. Non un'altra cosa da milanista, posso dire. Certo che può. Ha guardato ieri era davanti alla televisione alle 18:15. Sì. Ho girato un attimo per vedere la Pellegrini perché non la volevo perdere. Però a un certo punto mi sa che abbiamo fatto lo stesso gioco col telecomando. Tic tac tic tac. Sì. No, io spero che Sharawi trovi un'altra squadra perché il Milan è una cosa scandalosa ormai. Non lo so. No, non so neanche io, ma io spero che resti qua, che resti in Italia, che vada avanti a giocare nel Milan. Poi gli era ritrovato il gol. A proposito, il primo gol del Milan l'avete visto? Cioè, fosse in Italia, non era contento. Sì, sull'1-5 so anch'io. Posso capire, non era contento, ma lei sarebbe stato contento sul 0-5 di fare il gol dell'1-5 con il portiere del City. Che fosse stato in Italia avremmo chiamato in 1 milione in diretta all'ufficio inchieste, no? Audi Cup, sponsor del Milan, permettetemi di essere sempre un po' malizioso, però sinceramente quella di ieri sera ore 18:15 tardo pomeriggio, neanche prima serata, tardo pomeriggio, quella di ieri è stato un'esibizione da bollino rosso. Dello sport, ciao, perdonami l'entrata un po' osè, però sinceramente ieri sera ore 18:15 schermi di canale 5 ho visto un primo tempo da bollino rosso. Sì. Ma cosa vuoi rispondere? E la risposta è sì, perché dai, neanche se vado a giocare a calcetto con i miei amici faccio un primo tempo così. Ogni tiro un gol, ogni azione un'occasione da gol. Ma non scherziamo. Ma sai, minima scusa è che comunque la difesa del Milan, che già insomma non sarebbe stata impenetrabile, alla difesa mancavano i due centrali titolari, quindi, oltre ai terzini. Sì. Per cui mi sembrava anche logico che potesse finire così, magari non in quelle proporzioni, sinceramente mi pare anche, ne passa che un pochino così. Direi che Manchester City è entrato in campo per far vedere che è una squadra di gente molto brava, è chiaro che l'etica inglese impone, così ci raccontano, di fare sempre più gol possibile perché è il miglior modo per rispettare l'avversario. Ma questa è una filosofia che io condivido, Ale. Però a quello che dico al Milan, prendere fiato, poi ricominciare. No, ma scusami, però anche il Milan, allora, amichevole il 31 di luglio, va bene, ci sta, però il Milan non è che abbia il tempo di riposarsi fino al 26 quando comincerà il campionato. Il Milan ha un preliminare di Champions League. Tu dici le assenze, è una squadra e ci sta, però quello che ho visto ieri è preoccupante, perché veramente ogni azione era un'occasione da gol del City. Dopo 32 minuti io ho detto vabbè, ma cosa stiamo a fare? Sì, non credo che si rivedrà mai più in campo quella linea difensiva con quel portiere, ecco. Questa è una minima giustificazione per la orripilante prima mezz'ora di partita. Sì, hai visto qualcosa di decente nel Milan di ieri? Secondo tempo, secondo me, è stato un pochino vicino alla sufficienza. La cosa più importante mi sembra che sia il recupero di De Jong, che ha avuto un infortunio gravissimo in queste prime amichevoli, ha dimostrato di essere un giocatore solido, che è tornato sì, a essere quello che era. ad essere quello che era. Alessandra, ma Balotelli non c'era, rientrerà negli Stati Uniti, lo sappiamo. Arriva Silvestre, recupererà Montolivo. Tutto questo può bastare? È chiaro che siamo ieri era il 31 di luglio, però può bastare per trasformare il Milan? Possono bastare questi per trasformare il Milan in una squadra competitiva? Non lo so, sicuramente non sarà una squadra che può vincere la Champions League, ma credo che con bastino due dei giocatori che hai nominato, Montolivo e Balotelli, per cambiare completamente la faccia della squadra e rendere il Milan sufficiente per battere uno qualsiasi delle possibili avversarie del preliminare, del playoff europeo. Poi il resto non lo so. Il resto è difficile dirlo. Un anno fa 1-5 con il Real Madrid e seguirono strali da parte di Galliani, della proprietà, eccetera. Sono amichevoli, è evidente, però bisogna sempre, se sei in Milan e porti quella maglia, salvare la faccia. Creerà qualche problema ad Allegri questa partita? Non lo so, se sei il Milan e porti quella maglia, però per salvare la faccia bisognerebbe anche comprare giocatori della stessa qualità di quelli che aveva Ancelotti, e che peraltro anche lui aveva preso delle belle massate una volta in un torneo di Mosca. Sì, certo. Quindi certo. Non credo che sia possibile anche lontanamente paragonare il Milan attuale a quello che vinceva le Champions League qualche anno fa. Al momento non è possibile, se lo sarà mai non lo so. Credo che sarebbe abbastanza strano da parte di Berlusconi occuparsi di queste cose in questo momento, mi sembra che abbia cose più serie di cui occuparsi. Sì, come hai visto El Shaarawy, che era uno dei grandi punti interrogativi, ieri due gol, sul primo gol di El Shaarawy, ho detto prima e lo confermo, almeno questa è la mia posizione, fosse stato in Italia avrebbero chiamato in un milione l'ufficio inchieste, però forse sono troppo malizioso, fatto sta che no, insomma, lasciamo stare il primo gol. Ogni tiro un gol, hai detto te. Sì, sì, sì, so. Sì. Magari una come distrazione del portiere, non lo so. Il piccolo faraone. Male. Prima mezz'ora male. Ma come poi male? Se non altro ha avuto uno scatto d'orgoglio. La prima mezz'ora male quanto gli altri. Male quanto gli altri, però sappiamo bene come quello sia il giocatore sotto l'occhio di bue, no, Alessandra? Certo, proprio perché è uno dei giocatori migliori, lo si può giudicare più severamente rispetto a Vergara, che è appena arrivato e non è certo arrivato per fare il titolare adesso. Shaarawy pare che si stia sbloccando, è un ragazzo che ha qualità, ha un valore e naturalmente bisognerà aspettare che ritorni quello del girone d'andata per sperare che il Milan possa fare dei buoni risultati almeno in Italia. Se l'Europa è un'altra storia. Però Ale, scusami, ma El Shaarawy adesso non può più nascondersi, un po' come Federica Pellegrini, no? È chiaro che adesso non può più fare la sorpresa. Sì, ha giocato mezza stagione l'anno scorso, era il suo primo campionato in Serie A. Credo che sia un po' ingeneroso paragonarlo a Pellegrini. Ti ho detto, è un ragazzo che ha delle qualità. Io non credo che sarà mai Messi e Cristiano Ronaldo. Il problema suo, secondo me, l'anno scorso, oltre a magari altre cose, è stato anche che gli è stata messa addosso tanta pressione, gli sono state caricate tante responsabilità, poi improvvisamente scaricate dall'arrivo di Balotelli. Sì. Però sì. Bisogna essere consapevoli del fatto che Shaarawy è un giocatore in divenire e che comunque, ripeto, non credo che possa essere mai ai livelli di Cristiano Ronaldo o di Messi. Quindi speriamo per il calcio italiano, per i mondiali dell'anno prossimo, che torni ad essere quello che è stato nei primi mesi con il Milan l'anno scorso. Grazie Ale, grazie Alessandra Bocci. Grazie a te, ciao. Alla prossima, grazie Alessandra Bocci, inviata della Gazzetta dello Sport. Tutti convocati. Non bisogna né allarmarsi e né bisognava entusiasmarsi l'altro giorno quando abbiamo vinto in Spagna. è un percorso che va fatto con tutta la serenità, sapendo che possiamo passare dei brutti momenti come è stata la prima mezz'ora, però il nostro obiettivo è quello di essere pronti fisicamente e tatticamente per la prima di Champions. Alle 18:15 del pomeriggio, diretta nazionale, canale 5. Non cambio idea, ragazzi, perdonatemi. Allora, mi ricordano dalla regia, Franco Piantanida mi ricorda Allegri intervista a GQ. Gentleman Quarterly parla di eleganza, gli allenatori che si presentano a bordo campo in tuta, dice Allegri. Li multerei perché stanno rappresentando la società, non puoi mettere la tuta. Aggiungo, fuori dalle virgolette, non puoi neanche giocare come hai giocato ieri nei primi 32 minuti, eh. Anche se in campo vanno le riserve delle riserve delle riserve, non puoi giocare in quella maniera, con in quel modo difensivo, con quell'atteggiamento, nemmeno il 31 di luglio, nemmeno nell'Audi Cup, nemmeno in una situazione di questo tipo, perché sono davvero luci rosse all'ora dei cartoni animati. Estremizzo, ma questo è il mio pensiero. 800 24 00 24, diritto di replica a voi. Gianni Bergamo, buongiorno. Buongiorno, io sono Gianni da Bergamo, ci sto viaggiando, sì. Ho portato apposta per ascoltare voi, è la prima volta che ci sentiamo. Comunque io la prima di molte, sono... come? La prima di molte, sì, speriamo. Io sono un del 55, sono un milanista sfegatato. Io sono nato con Rivera, Benetti, eccetera, eccetera. Sì. La signora che diceva che El-Sharawi non va bene. El-Sharawi è un genio, ma troppi galli nel pollaio. Prima che arrivasse Balotelli faceva gol a Grappoli. Sì. E poi troppa gelosia, secondo me. Ma e poi Gianni, un'altra cosa, no, voglio sì, dire. Sì, prego. Posso. Prego, prego, come no? Il Milan, quando salivano i giocatori dalle scale per andare in campo dallo spogliatoio, gli altri avversari avevano, incuteva terrore agli avversari, il Milan, di Rijkaard, Gullit, Van Basten. Gianni, lei fa riferimento alla famosa notte del Bernabeu 1-1 per sbaglio, perché il Milan dominò quella partita, lì forse anche nasceva... Se, anche se ero a Bucarest, che ero lì a Barcellona. Sì, ma quello è arrivato dopo, no? Il grande Milan, insomma, è stato raccontato dai diretti interessati, quella notte al Bernabeu 1-1, quel gol di Van Basten rocambolesco. Colpo di testa meraviglioso, palo, schiena di buio, gol. Milan che dominava, poi finì 1-1, ma ripeto per sbaglio, perché il Milan per la prima volta dopo anni di vacche magre per tutte le squadre italiane dominò al Bernabeu. Ebbene, prima di quella partita sappiamo come i giocatori del Real Madrid fossero soliti picchiare le mani, i pugni sullo muri dello spogliatoio. Vamos a gagnar! Vamos a gagnar! E facevano paura agli avversari. Poi, e questa è neanche leggenda, è racconto, perché quello successe nella notte del Bernabeu. Poi sulla scaletta che portava al campo guardarono in faccia Baresi, capitano, Gullit, Van Basten, Ancelotti, eccetera, e pensarono e dissero: aspetta un attimo, non sono più le squadre italiane che siamo soliti massacrare come materassi negli ultimi anni. Questi forse mi fanno un po' paura. Allora, secondo l'iconografia classica, lì nacque la leggenda del Milan di Sacchi. Questa è storia, questo è racconto. Io credo che per quanto romanzo possa essere tutto questo, ci sia un fondo di verità, perché quella squadra è stata, secondo me, irripetibile, perché quella squadra ha cambiato comunque la mentalità del calcio italiano. Daniele, provincia di Cuneo, buongiorno. E a proposito di El-Sharawi, mi scusi Daniele, a proposito di El-Sharawi, dove El-Sharawi è un grande talento, è un grande patrimonio del nostro calcio. Ha giocato l'anno scorso una mezza stagione splendida, al di là dell'invidia. Io credo che Balotelli sia un fuoriclasse, potenziale finché volete, ma un fuoriclasse. credo che Shaarawy l'anno scorso abbia tirato la carretta rossonera per metà della stagione, poi ricordiamoci le premesse della vigilia del campionato. Chi poteva chiedergli un girone d'andata di quel tipo? Se nel girone di ritorno ha tirato il fiato, ha avuto problemi, come è normale per tutti i giocatori giovani che vanno in altalena, ebbene si può perdonare questo a Stéphane Shaarawy. Quest'anno vediamo cosa combina in coppia con Balotelli, vediamo cosa combina da giocatore comunque mediaticamente esposto, vediamo cosa combina da giocatore che magari il Milan ha intenzione di monetizzare. Questo non lo so in prospettiva futura. Per quanto riguarda quest'estate, certamente aveva intenzione di monetizzare, poi non c'è riuscito. Daniele? Ciao. Volevo proprio parlarti dei biglietti dello stadium, della Juve. Io sono tifoso juventino come mio figlio, e con i momenti di crisi che ci sono non riusciamo ad andare a fare un abbonamento. Avevo trovato un numero su internet e ti dico che mi è costato più la telefonata che il biglietto a momenti. Daniele, io non so rispondere a queste cose, mi spiace. Allora facciamo così, lo giro pubblicamente l'impegno anche a Franco Piattanini, al creatore di questo programma. Proveremo a sentire qualcuno della Juventus che ci faccia luce su questo argomento. Io non dico la verità, non ho niente da rispondere, non lo so, semplicemente non lo so. Perché no? Quindi direi delle fesserie se tentassi di rispondere. Io mi limito ad accogliere i vostri appelli pubblici. So che comunque, insomma, lo Juventus Stadium è il più gettonato tra gli stadi italiani. Vuoi perché ci gioca la signora tornata in auge, vuoi perché è un impianto molto bello, vuoi perché è bello andare a vedere, anche forse per chi non è tifoso della Juventus, andare a vedere il calcio lì. Mi scrivono, ricordo stasera il primo impegno ufficiale stagionale delle italiane, non mi ricordo neanche qual è, fate un po' voi. Riccardo, provincia di Modena. Sì, salve, buongiorno. Io sono un tifoso della Lazio. L'anno scorso, volevo parlare del calcio scommesse di Mauri. L'anno scorso, quando è stato arrestato Mauri, sembrava che in pompa magna aveva fatto un omicidio o qualcosa. Mauri, tutti i giornali, tutte le testate. Omicidio sportivo, Riccardo, omicidio sportivo, è chiaro, non bisogna enfatizzare, però se uno si vende una partita è omicidio sportivo. Ok, giustissimo, però adesso con tutti i fatti che stanno venendo fuori, sembra che questo Cristiano è andato in galera, che ci sono persone che ne dovrebbero andare, e non ha fatto, si può dire, quasi niente. Non so. È un po' assurdo come cosa che arrestare subito un calciatore, un capitano di una squadra? Ce lo dicono i giudici questo, io non faccio il giudice. No, dico, però è una cosa abbastanza grave arrestare una persona prima di avere delle prove certe, perché io posso dire secondo me quello mi ha detto, quell'altro mi ha detto. No, però sa, io credo anche che i giudici, insomma, conoscano la legge, custodia cautelare, se c'è pericolo di inquinamento delle prove, ci sono dei presupposti giuridici ben precisi, senza i quali non è che si possa procedere alla custodia cautelare così, tanto perché ci va. Quindi credo che i giudici in quel procedimento, senza voler arrivare alla sentenza finale, perché non è nostro compito, non è nostro mestiere, ovviamente, però io non credo che sono certo del fatto che se si procede alla custodia cautelare ci siano delle ragioni che sono quelle previste dalla legge. Quindi poi valutare le conclusioni del procedimento non è affar nostro, semmai poi chiacchierarne o parlarci sopra, però nel merito l'esito del procedimento non è affar nostro. Dobbiamo fermarci. 800240024 è il vostro appuntamento fisso anche per domani, dalle 14 alle 15. Grazie a Franco Piattanini, autore di questo programma, Filippo Auregio in regia, ciao a tutti.